inutile che ormai ti ostini a dire no, negando un fatto ovvio. Tu necessiti di me nello stesso modo che anch'io di te. Tu lascia che ora sia così. Prendi il sogno che ora è qui e inizia a crederci e non andare mai via. Perché? Fino a che arriva basterebbe ammettere che comunque quel che c'è è la prova più evidente che un passato sterile non concede repliche né al futuro né al presente. Così ormai non tornare dietro mai, non sacrificare noi, lo sai. Dire no, negando un fatto ovvio.